5. No, domani sono sulla 8, dall'1:30 alle 19. Pick up, dall'1:30 alle 19, dove? K-K. Anche dovrebbe essere solo alle 40, di Roma. Conta che dovete fermarvi ogni 10 minuti ogni corsa, quindi un'ora a meno in pratica, è come se lavorassi 5 ore, perché c'è quel 10 minuti di riposo, di pausa. Esatto. Sono vecchi e non sono ancora, sono tutti, evidentemente sono tutti al mare, a farsi la passeggiata. Io ho una giornata calda oggi, anzi, calda calda proprio, ma già c'è il venticello fresco oggi, quindi mercoledì cambia. E infatti, magari mercoledì dice che piove. Fa nuovo freddo, quindi trova una moneta come aprile normale, sarà a fine di maggio magari a vedere qualche strisciata come di caldo. E non smetterò, non l'accordatore, ma lo smetterò, sì che ce l'ho, io due. Guardiamo, l'accordiamo, non ci vuole molto accordarla, c'è la vittina da togliere e poi si mette lo stilo o per la più alta o per la più in basso, dipende, oppure si taglia, non è problema, per quello una cesoietta. No, non lo sento per niente. Ah, non mi sento, Richard, non mi sento per niente. Allora, perdono negativo, lo sai che c'è la condina di qua, e non sento l'accidente. Da fuori sempre tu la risenti tutti, li senti molto Sardegna, la risotta lì. Niente propagazione, adesso ho sentito uno. Sì, sento un po' bassi, ma già li sento. Bisogna terminare in questo momento, non so quanto è grande. Ci sono, sono tutto giorno a casa oggi, non devo lavorare oggi, ieri mi sono arrivato proprio in campagna a pulire e poi sono entrato ieri sera, dopodiché oggi sono di riposo, non vado a lavorare, torno e attira. Va bene, non c'è problema, che avuti già ci arrivo, perlomeno. Io qui non lo so, ma se la volti penso di sì. E allora, va bene, non c'è problema, no. Su 10, penso che 5 e mezzo 6 viene. Così facciamo la prova se io arrivo di là, attacco al limite l'altro barattino, così ti sento e tu senti a me, perché l'altro esce molto più forte di questo. Ok, buonasera, ci sentiamo, ciao.